solo se ti capisco, alma mea. In un albatro oscillo, vaneggio, pace nel mondo. Che guerra tutto intorno, mondo porno. Amore, dove sei? Mentre sprofondo e giacio tra le facce mie, mangiando mia paradossia, stella mia, brilla oltre i confini. Oltre i confini, oltre i pregiudizi, oltre gli assilli e i vessilli, non sia vana mea, d'inchiostro sacrificio, qualcuno mi aiuti, mangio polvere di un mondo che treno sfreccia veloce verso un bosco perduto, assieme a bambini persi, versi, unici acculaci, cicatrici, luci fanno shadow, in mano asci, pochi diamanti, contenti a metà con poco, la macchina del re dentro il fango, su scarpe scappo da un tempo, sul tempo i pop in flor di corsa, straccia la carta, ma l'unico con cui scendere la di strada, strada è nana, la chiostra è nana. Solo se ti capisco, alma mea, in un altro scivolo, ma ne faccio il mondo, guerra e dono, mondo popolo, amore, dove sei, è il nostro sprofondo, nel sangue di un giacciglio, e giacciò tra le facce mie, mangiando, mia paradossia, stella mia brilla, oltre a confini, oltre a pregiudizi, oltre a sissi e vessissi, non sia vano a meo, d'inchiostro sacrificio, qualcuno mi aiuta, un mondo che treno silenzio e veloce verso il bosco dove non si vestiva in persi, in persi, in persi, in persi, in persi, in persi, in persi, in mano asci, diamanti, contenti a metà con poco, la macchina del re è dentro, fanno scarpe, scappo da un mondo, tempo, hip hop, flow, carta straccia, l'unica con cui asciugare la strada, strada, strada in strada, strada in strada, in mano asci, diamanti, contenti a metà con poco, la macchina del re dentro, e fango su scarpe, scappo, da un tempo, su un tempo, il pop, il flow, il flow, la straccia, la carta, la carta, ma l'unica con cui asciugare la strada, in strada, in strada, solo se ti capisco, alma mea, in un albatro, vaneggio, pace nel mondo, che parlo di te, dove, dove, dove.